Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La cooperativa sociale Ali Verdi è nata con la collaborazione dell'Associazione Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante nel 2008, per creare nuove opportunità di lavoro e di reinserimento sociale attraverso la cura di uliveti abbandonati o non più coltivati nella zona di Piglio, nelle colline tra Roma e Frosinone. A guidare questa esperienza c'è un veneto, un padovano per la precisione, Paolo Brigo, che con la sua famiglia ha deciso una decina di anni fa di lasciare il nostro territorio per trasferirsi presso la comunità, appunto, Nuovi Orizzonti. Oggi al quadrifoglio vogliamo conoscere la sua esperienza e l'esperienza della cooperativa Ali Verdi. Benvenuto intanto Paolo. Ciao Emanuele, grazie, un saluto a tutti. Grazie. Ecco, volevamo un po' capire che cosa fa questa cooperativa e come nasce, perché nasce promossa appunto da questa associazione, di cui anche poi dirci magari due cose. Certamente, certamente. Beh, ecco, Nuovi Orizzonti in particolare nasce per dare opportunità di accoglienza, formazione e di soprattutto recupero a ragazzi che hanno vissuto esperienze difficili nella loro vita, anche esperienze di strada, a volte di violenza. E ecco, a Piglio c'è proprio una comunità terapeutica dove stavo nel 2008 e sto ancora. E lì c'era necessità di creare delle opportunità di formazione al lavoro e di inserimento lavorativo. Essendo le colline, diciamo, della ciociaria, non sono certo delle zone industriali o artigianali, guardandosi attorno abbiamo visto colline piene di uliveti e di vigneti, e quindi abbiamo subito pensato all'ambito dell'agricoltura come vocazione specifica di quel territorio. Tra l'altro offre ottimi prodotti sia come olio come vino, e così abbiamo cominciato a chiedere a delle persone del posto se avevano dei terreni che potevano darci per coltivare, e ovviamente i terreni che ci sono stati affidati inizialmente erano terreni per lo più abbandonati, perché zone collinari e ovviamente difficili da coltivare con i mezzi. Questo è un problema un po' tipico dell'Appennino, quindi varie, certo, zone che sono state un po' abbandonate dai giovani che hanno cercato lavoro nelle città. Roma non è molto lontana, per esempio, e quindi rimangono uliveti o anche terreni non più coltivati. Esattamente, sì, tanti giovani che si spostano nella città in cerca di altri lavori, e quindi manca il ricambio generazionale, quindi gli anziani che hanno una tradizione, una capacità anche di lavoro della terra molto bella, molto importante, non trovano giovani che possono inserirsi in questo. La sfida è alta, però dà tante soddisfazioni, perché comunque un po' alla volta siamo riusciti a mettere in coltivazione diversi terreni e ottenere un prodotto che da subito è piaciuto tanto, tutti quelli che l'hanno assaggiato l'hanno trovato ottimo, e questo ci ha dato anche il desiderio di continuare, ecco, pur tra tante fatiche. E devo dire che dopo quasi 10 anni la cooperativa è cresciuta, abbiamo diversi terreni di uliveti, adesso ci stiamo specializzando anche nei vigneti, perché il Piglio è famoso anche per il cesanese, è l'unico DOCG del Lazio, e quindi stiamo lavorando anche in vigneti. E ci stiamo aprendo un po' alla volta anche ad altre esperienze di lavoro con i ragazzi disabili. Infatti era un progetto sperimentale con un piccolo orto che faremo con i ragazzi disabili, ecco, del territorio, e quindi si unisce, oltre all'impegno in agricoltura, l'impegno per una attività economica che sia anche inclusiva, no? Anche di varie forme di, possiamo dire, di svantaggio, ecco. E quindi che cosa, cioè di fatto voi ogni mattina c'è un gruppo di persone che lavorano nella cooperativa che vanno a lavorare in questi vari terreni di proprietà, sì, di altre persone, perché non sono, sì, vostri terreni. Sì, sì, sì, diciamo che la cooperativa in questo modo funge da catalizzatore, in pratica è una scatola in cui si cerca di organizzare al meglio delle risorse che singolarmente non sarebbero produttive. Quindi c'è chi dà il terreno, chi dà la forza lavoro, e quindi anche persone o della comunità o persone indicate dai servizi sociali che sono rimaste senza lavoro, e chi mette una competenza tecnica. In questo caso ecco, ci sono dei signori, uno in particolare che ringrazio di cuore, il signor Claudio, che da anni viene, forma i ragazzi, li accompagna sul terreno e mette quella competenza tecnica senza la quale la sola porta lavoro e il solo terreno non sarebbero in grado di produrre. La cooperativa ha messo anche i mezzi di lavoro, quindi i trattori che abbiamo acquistato attraverso dei finanziamenti regionali per l'agricoltura, e quindi siamo riusciti a innestare anche l'altro fattore produttivo, che è il capitale, e mettere in moto un meccanismo che, ecco, pur piccolo, pur nella difficoltà, però sta producendo dei risultati e può essere un modello interessante, perché ripeto, fattori che singolarmente non erano produttivi, terreni abbandonati, persone disoccupate, un po' alla volta, con un po' di buona volontà di organizzazione, stanno ottenendo qualche risultato, anche certo. Se vogliamo dire che può dare un po' di speranza in più, ecco, quello è la mission della cooperativa. Benissimo, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di una interessante esperienza che non si tiene nel Veneto, ma nel Lazio, tra Roma e Frosinone, in particolar modo nella zona di Piglio, guidata da un padovano, Paolo Brigo, e la cooperativa sociale agricola Ali Verdi, legata all'associazione, alla comunità di Nuovi Orizzonti. Abbiamo visto prima il lavoro della cooperativa, che è in particolar modo con il territorio, quindi il recupero anche di terreni, uliveti non abbandonati o non più coltivati da persone anziane, proprietari che non hanno più interesse o economico, non hanno più la forza per farlo, i figli magari sono lontani. Quindi mi interessa proprio che il vostro lavoro, questo aspetto, insomma, del lavoro che fate, che aiuta a far rivivere un territorio, e quindi è in collaborazione e non in alternativa o in contrasto magari con altre aziende agricole del territorio. Mi pare di aver capito questo. Sì, è assolutamente questo. Diciamo che abbiamo messo insieme tanti ingredienti, quindi la disponibilità dei proprietari a dare dei terreni, la disponibilità anche dei servizi sociali del territorio, che ci hanno sempre sostenuto con varie forme di anche strumenti per l'inclusione sociale, quindi borse lavoro, piuttosto che ecco, anche la messa in rete con altre associazioni del territorio. E l'altro aspetto, diciamo, che ha un pochettino reso possibile tutto questo è la capacità organizzativa della cooperativa, che ha attinto a dei fondi regionali per ecco, avere i mezzi agricoli necessari, e dall'altra abbiamo, grazie alla rete anche di Nuovi Orizzonti, siamo riusciti a distribuire i prodotti, a venderli sia, diciamo, nel territorio, infatti, che in tutta Italia, anche grazie ai gruppi d'acquisto. E anche a Padova, tra l'altro, ecco, certo. Emanuele in particolare conosce i gruppi d'acquisto di Padova che ci hanno aiutato. E l'aspetto del consumo, diciamo, responsabile è fondamentale, perché più ci sono consumatori che sanno leggere la qualità del prodotto, non solo diciamo in sé, ma anche rispetto a come è stato prodotto, dove, anche l'impatto sociale, infatti, che può avere quel bene, più queste iniziative si possono sviluppare e sostenere. Ecco, infatti a questo volevo arrivare. Voi avete fatto la scelta anche del biologico. Intanto l'ulivo è anche una pianta simbolica, perché è una pianta biblica, simbolo di speranza, di pace, e il vostro, certo, olio si chiama Joil, quindi credo che richiami al termine inglese che indica gioia, e avete fatto anche la scelta del bio, quindi anche e della qualità. Certo. Sì, quello senz'altro. Il biologico è stata anche una scelta naturale, perché ecco, lavorare in collina è faticoso, è difficile, però ha il vantaggio che ecco, è fuori da tipi di coltivazione intensive, e quindi che utilizzano pesticidi e altri fattori inquinanti chimici. Quindi il biologico viene in modo abbastanza naturale. E quindi per noi è stata una scelta molto, molto semplice, ecco. E il vino? Il vino, quello purtroppo no, si fa una lotta integrata, quindi si cerca di usare il meno possibile i pesticidi, però faremo una piccola sperimentazione per il biologico, ma siccome si lavorano quasi 20 ettari, purtroppo è ancora troppo rischioso ecco, coltivare tutto a biologico. Quella è una coltivazione che è anche particolarmente costosa, e quindi se un anno salta il raccolto sono guai. Ecco, volevo parlare dell'aspetto, e poi andiamo a concludere, l'aspetto di inserimento lavorativo. Le persone che lavorano da voi sono o persone che hanno avuto dei disagi, dei problemi particolari nella loro vita, ma anche poi persone che lavorano nel territorio e che attraverso, sì, di voi hanno trovato l'opportunità di rimanerci. Volevo fare un'ultima riflessione sull'importanza dell'agricoltura sociale, perché la vostra è un'esperienza di agricoltura sociale, per il recupero del territorio, come abbiamo detto, ma anche per il, tra virgolette, recupero delle persone. Sì, guarda, questo è un aspetto bellissimo, perché ecco, l'agricoltura, ripeto, per quanto faticosa, per quanto sia difficile far tornare i conti a fine mese, ti permette di lavorare con la natura e nella natura. E quindi offre delle potenzialità enormi di inclusione, cioè lavorare insieme la terra crea quel clima di sintonia, di fiducia, di familiarità che va oltre all'origine delle persone, a quelle che possono essere anche delle difficoltà fisiche o mentali, e crea subito una grande unità, e questo da un punto di vista di inclusione sociale nel mondo del lavoro è un valore aggiunto enorme. E la soddisfazione è vedere nel tempo anche alcuni giovani che si sono inseriti nella cooperativa e sono motivati, giovani del territorio, quindi ci può essere anche un ritorno all'agricoltura anche per i giovani che hanno questa vocazione, e si sono inserite anche persone che purtroppo hanno perso il lavoro dalla zona industriale di Anagni e un po' alla volta lo stanno ritrovando in agricoltura, magari anche padre di famiglia. E quindi è un progetto che dà delle soddisfazioni, è molto complesso perché, come spiegavo prima, vanno messi insieme tanti fattori, ogni anno ce ne inventiamo tutte per andare avanti, però creando rapporti di fiducia, ripeto, tra chi ci dà i terreni, chi lavora, i servizi sociali, e i consumatori e anche chi ci finanzia, perché ci sono delle banche che sostengono il no profit, che ci danno sempre una mano nei momenti un po' di difficoltà, ecco, mettendo certo. insieme tutti questi fattori con un fine sociale importante, ecco, qualche risultato si riesce a ottenere. Ecco, per avere informazioni su di voi, sulla cooperativa Ali Verdi e sulla comunità Nuovi Orizzonti, c'è un sito internet, una pagina Facebook? Allora, il sito internet è in costruzione, abbiamo la nostra mail che è info@aliverdi@gmail.com. Oppure attraverso il portale di Nuovi Orizzonti www.nuoviorizzonti.org. Benissimo, grazie Paolo. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e un caro saluto, a presto. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.